Infatti, volevo chiedere, ho detto se adeguato, sì, sì, anche un piccolo aiutino, dai, alla fine. Sì, è l'importante, dai. È giusto per giocare, sì, dopo ci prendiamo un tifo, tanto che ci siamo alla grande lo stesso. Siamo, vediamo un po', se cos'è il massimo che posso aumentare. Oh. Aspetta, questo è il massimo che posso fare, dai, sto pilotando con un VAT. No, è tranquillo, andavi meglio prima, anche adesso hai attivato un po'. Sì, sì, quello lo conosco bene. Se lo vedi bene vai alla grande. Dovrebbe andare un po'. Però fare un po' un altro problema, ma tutto purtroppo da giocare non si può raggiungere dove. Io ho provato a frugare, in effetti un po' la rotta di sale vado a prendere. Io c'eravo più di 10 anni spento, me l'ho messo in moto, me l'ho tentata, di pulito, e sembra che funziona bene. Ovvio, se le valvole non vengono utilizzate, poi si smetta. No, comunque, io ho provato su... aspetta, allora, devo guardare il cellulare che ho la salvataggio, i preferiti. Per caso ti faccio sapere. Capito, ma non lo fa bene, ha pure una cosa che non farà. Thank you. certo di esperienza anche per fare lavorare su apparati, molto di altro, no, no, io mi faccio tutto quello che è sul mio vero per me, poi dopodiché niente, non vado mi accontento così, quel che posso fare faccio pure, dopo nada, direi. Appunto so che c'è, vabbè, quindi ti può aiutare anche Claudio, Salviero, il cantante che è Fabrizio, che c'è anche Roberto, Sobrato, loro già hanno il giro. Buongiorno Angelino, buongiorno. breve, ma c'è tempo brutto in giro. Non so se inizia da domani, ma lunedì c'è un bel temporale. C'è allerta meteo per lunedì. Già il continente ha fatto un casino nero. C'è temporale lunedì e forse anche martedì. Questa perturbazione di passaggio, poi avremo nuovamente caldo. Ma vabbè. Prepariamoci allora, va bene, va bene. Non so Angeli che vento sia, qua dice solo sul meteo.it al computer dice temporale con fulmini, insomma temporale, di quelli belli, vabbè, vuol dire che tanto lunedì mi sa che si riprende la normalità e ci accompagnerà questo bel tempo, poi cambierà sicuramente, dai, va bene. Ok, sto aspettando Massimiliano, devo fare due prove, però ancora non mi ha mandato nessun messaggio, io sono qua. Che di vento anche a 70-80 km orari è sempre lì bella secca, cosa che invece le direttive hanno fatto cilecca, va bene, ok, comunque dai, già dura poco, non è, questi sono temporali di passaggio, quindi già va bene. Ok, ho sentito anche a Roberto poco fa, ciao Roberto, intanto lui è sempre in agguato, lì in ascolto. Buongiorno, ben ascoltato, sei passato da Santiago 3 a Santiago 9. Proprio un abisso, sembra che stavi cambiando l'antenna. Anche a Sandro ho sentito, Conan, buongiorno anche a lui, se c'è ancora. Arrivate tutti bene dal Alghero, io non ho problemi, dai. Mi pare che l'ho sentito Roberto, vabbè sei tu? Ciao Rubi, un abbraccio anche a te, ben ascoltato, 5-9, va benissimo, sì, io sto andando con l'apparato baracchino, perché apparato non si può chiamare, con il baracchino vintage, ma già mi sentite lo stesso, dai, non c'è problema. Oramai a primo impatto accendo sempre questo, anche se tutte le altre sono accese, però ho commutato qua. Va bene, ciao Robe di nuovo, buona giornata, buon tutto, un abbraccio grande a te, Angeli. Cosa devo dire? Già va bene, dai, lascialo operare a Roberto, che lui è sempre in fase di operazione. Non devo fare niente, già ho messo tutto in ordine, volevo piazzare l'altra base, però ci ho rinunciato, altrimenti non ci ho posto. Tolto qualcosa, ho messo giusto qualche baracco vintage e basta, per il resto lascio tutto così, dai, tanto non ne vale la pena, giusto per fare due chiacchiere, ok, visto che qua i sassaresi mi dicono che devo usare il baracchino anche io, li accontentiamo, usiamo il baracchino, dai. Anche se non me ne fotte niente a me di quello che dicono gli altri, ma comunque va bene così, ok. Lì già viaggiano, visto che l'antenna lì nel giardino, già viaggiano anche i piccioni, dai, uccidi Giacinè. No, a me fortunatamente l'unica cosa che mi dava fastidio, mi hanno sporcato tutte le direttive, sono gli stormi. Poi per quanto riguarda corvi, piccioni eccetera, non mi danno fastidio. Ma quando c'è quella carica di stormi, Angeli, è un casino totale, guarda. Vabbè. Già va bene, già va bene. Ok. Sbattono, ma poi quando arrivano tutti assieme praticamente coprono completamente l'antenna. Io ho una foto e l'antenna non si vede più, è completamente invasa, capito? Proprio invasa. Però non le fanno niente perché le direttive sono abbastanza robuste, ma la sporcano, l'hanno tutta sporcata, infatti adesso ce l'ho bassa e devo tutta pulirla, devo tutta metterla in sesto per l'estate, capito? Fare un po' di manutenzione, però sinceramente non è cosa che posso fare da solo, quindi aspetto un po', dai. Tetto a tipo campo da calcio, un po' in pendenza perché c'è la mansarda sopra, capito? Quindi c'è un po' una leggera mantovana, ma comunque è molto rialzata, si cammina bene, si passeggia, no, non c'è niente. C'è la copertura in cartone catromato e poi c'è l'impermeabilizzazione in alluminio sotto, quindi c'è un piano di massa allucinante. Sì, camminando e passeggiando sul tetto, non possiamo anche mantenere la distanza di sicurezza, 35 metri per 20 largo. No, posso anche andare a prendermi solo con la sdraia, ma non mi frega niente. Comunque già si lavora bene, non ho problemi, roba mia e quindi posso salire e scendere quando mi pare piace. Solo che non ce ne voglia, Angeli, non ce ne voglia, poi sono impegnato in altre cose, quindi ho abbassato solo il sistema e adesso devo manutenzionare appena cambia il tempo, insomma, appena puoi stare su in pantaloncini e maglietta, ecco, allora è piacevole lavorare, ma con queste scariche, queste passate di vento e queste giornate così, già rimane tutto lì, non me ne fotte niente. Cosa stai usando? 213. Ehi, va bene, già è un cavo buono, dai, quanti metri ne hai? No, già va bene, se non hai stazionaria già va bene. Te l'ho detto l'altra volta, non fare dei ciocchi, non arrotolare. Mettilo quello che ti avanza, mettilo in bando. Normalmente problemi non ne hai, così se capita che devi spostare l'antenna, tirarla su, insomma fare dei lavori, hai sempre un po' di cavo in più, capito? No, lascialo così Angeli che va benissimo, lascialo così. L'importante è che non pieghi il cavo, che non fai dei ciocchi, che non l'arrotto, insomma, lascialo così che no, non te ne crea problemi. È sempre meglio avere qualcosa in più, capito, e tagliare a misura, io non l'ho mai tagliato. Ho sempre un metro e mezzo qua dentro casa per gli spostamenti della radio, e qualcosa c'è sempre su, dai. Ciao Angeli, ciao anche a Nadia, buona mattinata, buon tutto e ci si riascolta, dai. Io metto a fare qualcosa qua al PC, ma sono in QRX. Ok, ciao Angeli, grazie della disponibilità. Quando sarà poi ti faccio sapere, dai, così vedi un po' come sono organizzato. Ciao, a presto Angelo. Ciao Nadia, ciao. Avanti. No, sono io. stavo controllando le stazionarie del baracchino. Ma sei più basso il segnale, Claudio. Se sto usando il baracchino, è chiaro che sono più basso. 5 watt. Eia. Se vuoi vedere attacco la cosa, la multibanda, anche sempre come di segnale, la vuoi sentire? Mi accorgi che sto andando un po' più forte. Ma poi c'è, non sei voi, attacco un attimo la multibanda, d'accordo, e te la faccio sentire. Ehi, vai, non c'è problema. Aspettate, mi sposto appena. Ehi, già sono qua. Qual è il segnale, Clark? No, aspetta, però vabbè, che devo passare con l'HF, se no non me ne accorgo col baracchino, aspetta, mi metto gli occhiali. Un bel si è abbassato il segnale. Si è abbassato un bel, prova. Anche il tuo si è abbassato un bel, 1, 2, 3, prova radio. Sì, c'è 9,30. Lo stesso segnale il tuo, 9,35 tu sei, io sono 9,30. Però il QRM me l'ha abbassato un bel, almeno capisco se c'è un mondo in giro, quando devo fare, senza fare cose importanti attacco questo. Ma come si muove? Vabbè, ma l'hai stretta bene con l'antenna, perché dalle raffiche di vento che ci sono, la 9,30 vai a 9,25 e poi torni a 9,30. E vedete, voi accordato qua, qua adesso stazionario ce l'ho tanto, esatto, guarda se sono sceso, adesso salito un po' il segnale. No, da 9,30 poi torna indietro, va a 9,25, poi torna nuovamente a 9,30, sembra qualcosa che oscilli, che si muove, boh. Aspetta un attimino, se voglio vedere se riesco a abbassare un po', accordare meglio, e va bene, oggi è tutto, aspetta, guarda adesso. Quando hai accordato andava bene, poi si è di nuovo sceso. Vabbè, vuole tutto sistemato, adesso sto usando quello ZG di accordatore. C'ho un guardando così sembra 1,4 del stazionale. Sì, vabbè, 1,4 non sono niente. Minchia, c'è una passa. Mi senti la raffica nella finestra? Lo senti il vento fischiare? Che vento, sono entrato adesso, non lo so, non me ne sono accorto, sono andato a fare la spesa in una frutta e verdura, però non ne ho notato di vento, forse è dalla tua, perché è tutto aperto. La zona mia, fa paura quando c'è vento, non ci crede qualcuno. Come te ne sei andato tu, Cla, è venuto coso, mentre si chiama, Sergio con Riccardino, gli ho dato il microfono a portare a Fabrizio, così scende. Lui stava andando alle punte, ma come che non so alle punte che sono a coso, alla Crucca. Ah, stava andando da Valter, no, Fabrizio l'ha fatto stamattina, sicuramente stanno lavorando sulle antenne, ma con questo vento, poveracci, mamma mia. Ma lui era con questo percorso nella stazione di Lipunti, ma domica non sono a Lipunti che sono giù a coso, a San Giovanni, chiamiamola la Crucca è quella zona, ma è così? No, dove avete Massimiliano, Maciaguretta, avanti Breck. Ok, Claudio, come mi ascolti? Prova Massimiliano. Guarda un po', ho montato l'antenna. Massimiliano, c'è troppi picchi positivi, da 9 vai a 9,20, devi darmi qualcosa di più stabile. Come lo usavo prima, Claudio, da 9 a 9,20. Un watt come stavo usando prima. Vabbè, non puoi dare meno picchi positivi, è segnalone. Segnale come l'altra, Massimiliano, così vedo io, però voglio capire da una all'altra, senza parlare magari, mettendo solo la portante, riesci a farlo oppure sei ancora fuori? No, sono in antenna diretta adesso, con Rosmetto, con questa radio, aspetta. Guarda, così c'ha meno picchi forse, ho aumentato un po' i watt. Perfetto. Allora, c'hai 9,10 di portante bianca. Adesso bisogna vedere, mettere la portante bianca con l'altra antenna, ce la fai? Allora devo attaccare tutte e due le antenne, però con due radio diverse, no? Ok, datemi il tempo, comunque questa qui è quella là ed è già sul tetto pure. Massimiliano? Dimmi. Mi ascolti? Ti ascolto. Quanto è il segnale? 7. E anche tu c'hai il 7, dai. E la TV tra l'altro ne è solo appoggiata, c'è i radiali che stanno toccando sul palo, non è neanche messa bene, dai. Almeno esce un pochettino. Va bene, riprendete un secondo, che mi sta chiedendo una cosa mia moglie, aspetta. Allora, Massimiliano, appena hai 2 minuti, fai questa cosa. Ok, attacchi. No, sempre con lo stesso baracchino però, sempre con lo stesso baracchino, devi staccare quell'antenna, io il segnale l'ho già visto a portante bianca, 9 più 10, devi staccare quell'antenna e attaccarmi l'altra, ok, e vediamo se c'è differenza, portante bianca così, senza toccare i watt del baracchino. Deve essere sceso giù, dai. Così facciamo la prova, perché altrimenti non capisco. Ho montato la stella, la Sirio è una bellissima antenna, caspita, va molto molto bene. Adesso questa la Mantova diretta, senza accordatore né niente, qua. 9,50, sì, con picchi a 60. E allora guadagna 30 dB guadagna questa antenna, vabbè, dedicata per questa roba. Vabbè, normale, se è dedicata per quello, vabbè, è più che normale. C'è da dire là, che è appoggiata, dove ci sono il piantone dei radiali, è appoggiata sul palo, per cui il palo fa anche da disturbo, dai, devo metterla in cima, quando c'ho tempo adesso, è che non la devo scendere, mettere il palo in modo che salga su, la metto tutta in una volta, nel sacco di nuovo i radialini, se non ce la faccio oggi, domani, se non piove lo faccio, dai. Adesso vediamo, questo fine settimana è triste, già iniziando da oggi, poi domani sarà uguale così e lunedì e martedì ci sono dei temporali in giro allucinanti. Già l'ho visto, e anche oggi qualche schizzo di acqua è previsto anche oggi comunque. Vabbè, lasciamo a casa, c'è la biglielucci. Ok, no, c'è nessuno qua su questo canale. Gavino da queste parti, saluto Roberto e Claudio. Dove sei Gavi? Perché ti arrivo un po' forte? Che segnale mi dai qua? 9 più 35 è spaccato, più i picchi positivi. Via il labo sono. Dove sei, non ho capito. Via Napoli. E Claudio, tu come lo ricevi? Uguale, Gavi, te l'ho già detto. Oltre 9 più 30, radio 5 perfetto. E via Napoli, laboratorio, Roberto. Sì, no, no, ci conosciamo con Gavino, ci ha andato più di una volta. Ok, no, infatti stavo dicendo, da cosa hai fatto? Da casa tua a salire così tanto di segnale? Sono più vicino a voi, dai, più vicino da queste parti. Il segnale è più forte qua al laboratorio rispetto a casa. Da me diciamo che è quasi uguale, 9,30 mi arrivi lo stesso anche, 9,25 con picchi a 30, quasi 9 più 30 arrivi a casa tua, da casa tua qua, Roberto non lo so, in via Napoli sei oltre 9 più 30, dai. Via già va bene, sì, 7, 8 watt sto andando. Vecchi? Registrato. Arrivi bene, Gavino, non c'è problema, avanti Giulio. Ok, ciao Claudio, ciao Gavino, Santiago 8 quasi dalle mie parti, Gavino. Ciao Roberto. Ah, sto facendo bene questa radio, cioè questo microfono, c'è qualche fischio o qualcosa del genere? Quando parli no, quando rimani zitto si sente sotto un fischiettino leggero, sembra qualche rientro, qualcosa. Sì, era la radio che era acceso, adesso non ci dovrebbe essere, confermi? Alla grande, 10 lode. Ok, l'MB più 4 sul K, questo è o qua. Quando facciamo queste cose non c'è niente da fare, 10 lode Giulio, è un 60, stessa modulazione, stessa chiarezza, tonalità medio bassi ottimi, per me sei da 10 lode, è un microfono che si può usare, io ce l'ho usato, lo uso, va bene, è che purtroppo l'estetica a me piace avere il 60, però posso tranquillamente usare anche quello Giulio, va benissimo. me? Avanti il break. Ok, da, ciao Giulio. Allora, Clara, possiamo rifare questa prova? Allora, questa è sempre quella, ok? Con 10 watt di portante bianca. Ok. Ok Massimiliano, con le scuse per Giulio e Roberto. Allora la radio non toccare niente, lasciala così. Devi staccare quell'antenna e attaccarmi la mantova. E ti dico se c'è differenza, ok? Ok, va bene, aspetta che lo faccio. Diretta e senza niente. Secondo solo che vediamo la differenza di queste antenne rimasti, eh? Sì, non c'è problema qua, figurati. Sì. Cosa ha fatto? Ha piazzato quell'altra antenna, quella che stavamo parlando ieri, o ho fatto ieri, se ricordo bene? Sì, Giulio. Guarda un po'. Guarda, hai solo più picchi di modulazione rispetto all'altra. Quindi, però, mettimi la portante bianca senza parlare. Massimiliano, spiccicate, 9-10 portante bianca una e 9-10 portante bianca l'altra, con picchi positivi a 15 una e con picchi positivi a 15 l'altra. Io noto questo sulla mia. Vediamo Roberto se ha notato qualcosa. Io sono stato molto attento, vai Roberto? Ma il segnale più o meno come l'ha detto Claudio, ma forse è una cosa impercettibile, questa leggermente, ma una peluzzina appena di più, ma proprio forse è una cosa impercettibile. Però Robè, devi contare che questa qui è un metro e mezzo più in alto ancora. Allora questa diciamo dal tetto